Penso che quello che dirò adesso ha a che fare proprio col tema della complessità vivente, nel senso che io ero venuto qua pensando di fare una certa relazione, ma poi ho sentito una serie di stimoli molto forti e quella relazione è un po' cambiata ovviamente nella mia testa. Siccome però io tendo a essere un improvvisatore e quindi ad andare fuori tempo e andare chissà dove, allora ho preferito in ogni caso manteniamo questo progetto. Allora, in primo luogo mi presento, ma non perché mi interessa particolare presentarmi, ma perché sennò forse non si capisce manco perché vi faccio certi discorsi. Allora io vengo dal mondo della musica. Io a 3 anni sono andato a Rigoletto con mio papà e sono stato talmente preso da quest'opera, talmente coinvolto che nel momento in cui mio papà si è distratto, gli sono scappato via, c'era una piccola pausa, e sono andato dal direttore d'orchestra e gli ho chiamato, gli ho detto: "Scusi, ma è difficile fare il direttore d'orchestra?" E lui mi ha detto: "Beh, insomma..." E poi mi chiamò sul palco. Feci questa uscita perché mi partì da dentro. Fu un impulso irresistibile. Poi iniziai a studiare musica e beh, un altro evento che mi colpì moltissimo, a 16 anni, potei assistere a un concerto di Mstislav Rostropovich, uno dei più grandi violoncellisti che siano mai esistiti, concerto di Shostakovich. Ero in prima fila a questa distanza, arriva Rostropovich, lo vedo in uno stato di trance. Di solito il concertista saluta, si siede, accorda lo strumento, si guarda in giro, aspetta un po'. No, lui si è seduto, è partito. E è andato avanti. Tutta l'orchestra era completamente assorbita da come lui suonava e tutto il pubblico è stato trascinato via da questo. Fu un evento così potente che quando tornai a casa e studiato violoncello, mi mise a suonare proprio il concerto che aveva suonato lui. E sentì dentro di me questa carica che quest'uomo portava. Ho scoperto dopo che Rostropovich era violoncellista da bambina, aveva suo padre violoncellista, a 12 anni, suo padre morì, si trovarono senza soldi, andarono a vivere sugli orali, c'era freddissimo d'inverno e lui suonava il violoncello a 20 gradi sotto zero e si dedicò così tanto che divenne poi Mistra Rostropovich. Vi dico questo per dire quanto ho apprezzato il termine sogno, quando di cui ho parlato, ma senza sogno nella vita uno che fa, certo, io vedo molta gente che non vive per un sogno, ma vivacchiano, sono persone che non hanno una carica, cioè la carica vitale è spenta. L'essere umano vive quando c'è un sogno da realizzare, qualcosa che veramente lo trascina. Bene, io sono riuscito a rovinare il sogno della mia vita, che era diventare un musicista. Quindi io sono un esperto di come si prende un sogno e lo si fa a pezzi. Non potete immaginare dove sono finito. Sono finito alla facoltà di giurisprudenza. Quando ormai ero nella carriera, no? Sono finito nella facoltà di giurisprudenza, dove le regole contano, è l'unica cosa che conta. A diritto si studiano le regole. E le persone alla facoltà di giurisprudenza sono corrispondenti della materia che studiano, cioè tutte cose. Lì dentro io sono riuscito ero morto. Non vi dico perché sono finito lì, sono finito in analisi a 27 anni, stetti in analisi 2 anni, poi l'analista morì, non penso per causa mia, ma insomma comunque fa di fatto che l'analisi mi servì a capire che avevo sbagliato strada. C'era anche un portinaio che aveva capito da solo, però io dovetti spendere tutti i soldi che guadagnavo per 2 anni per fare questa analisi. Okay. Di lì iniziò una crisi bestiale, perché da una parte capivo che il mio mondo era la musica, quello era ciò che volevo fare, cosa c'entravo io con la giurisprudenza? Non vi dico perché ci sono finito, perché facciamo. Bene, a questo punto cosa faccio? Sono ricercatore presso la facoltà di giurisprudenza, sto facendo il concorso per la magistratura, sono avviato in quella professione lì. Mi è ripresa la passione per il violoncello, ero iniziato a prendere. A 27 anni uno tagliato fuori dalla musica. Basta, musica classica è chiuso. Abitai un momento di schizofrenia. Fantastico. Poi incontrai un compositore, un musicista, e poi la mia storia iniziò con una deviazione. Iniziai a fare improvvisazione musicale, visto che non potevo più comunque seguire musica, grande musica, però iniziai a fare quello che mi era più congeniale, cioè a mettere su un trio di improvvisazione, un pianista, una flautista. Bene, questo trio tenne notevoli risultati, diventammo un trio in Italia che nell'improvvisazione musicale avevamo un nome, cioè, cominciavamo a girare. Non vi dico perché questa cosa finì per cose, vi ha parlato il professor De Toni, per fatti riguardanti le emozioni. Flautista e il pianista erano una coppia, si separarono, fine del trio. Questo è tanto per capire come la complessità ci accompagna, cioè uno fa dei bei progetti, fai progetti, vai come ti dico. A quel punto lì mi trovo con... comincio a dedicarmi a un altro settore che mi affascinava, che era la musicoterapia. E lì nella musicoterapia ho trovato qualcosa che finalmente poteva coniugare diverse cose che avevo sviluppato nella vita. Tanto chi ha la capacità di fallire in modo così grave ha dentro di sé un grosso stimolo, ecco, musica, musicoterapia, ha un grosso stimolo per trovare delle soluzioni. Cioè avere dei problemi non è mica un male, purché uno non ci si faccia ammazzare dai problemi. Avere dei problemi è una molla per attivare delle risorse. Infatti io ne ho attivate un certo numero proprio perché ho avuto dei problemi seri. Eccoli, musica, giurisprudenza, musicoterapia. Entro nella musicoterapia e mi accorgo che la musicoterapia, senza la comprensione delle relazioni umane, quello che studia la psicologia, è abbastanza priva di senso. Non basta suonare, bisogna capire cosa si sta facendo, è ovvio. Per cui iniziai a studiare psicologia, poi questo mi prese, cominciai a studiare, insomma, fino a diventare psicoterapeuta. Bene, vi dico, ho dedicato per molto tempo, ho dedicato parecchi anni alla formazione in musicoterapia come formatore, e lì vi posso dire che sono state delle esperienze che poi vi dirò perché hanno a che fare con la complessità. Ve le indico così. In un gruppo una persona viene indicato di muoversi liberamente nello spazio esprimendo ciò che sente dentro di importante in quel momento. Quindi la consegna è estremamente ampia, cioè non ha molti vincoli se non quello di muoversi in modo innocuo per gli altri, cioè non può ammazzare. Si muove nello spazio questa persona e un altro gli si dà la consegna di con la voce o con uno strumento musicale di ricalcare il movimento. Bene. Non ho visto una sola volta in cui, quando questo è avvenuto davvero, cioè chi sapeva ricalcare il movimento musicalmente, non ho visto una sola volta in cui questo incontro tra il movimento e il suono, il canto, la musica, non abbia sortito un effetto importantissimo. Le due persone, alla fine dell'esperimento, dell'esperienza, si sentivano attratte una all'altra fino a dovevano abbracciarsi, si abbracciavano. Che cosa era successo? Era successo che chi suonava aveva colto qualcosa di essenziale nell'altro e l'altro si era sentito riconosciuto. Si è sentito riconosciuto in che cosa? In ciò che più importante c'era, la sua espressività. Bene, questo ha a che fare col tema di cui vi voglio parlare. Allora, frequentando ambienti diversi, ancora prima, scusa ancora una volta sola, musica, giurisprudenza, musicoterapia, psicologia, e poi quello che frequentiamo tutti, amicizia, affettività, ho visto che non è molto importante il contenuto. Io ho vissuto momenti nella musica dove c'era una conflittualità e una odiosità reciproca rara da trovare nelle relazioni in campo giuridico. Come ho trovato anche in psicologia delle dinamiche assolutamente... E lo stesso può accadere nell'affettività, tutti hanno l'esperienza di una coppia che funziona male. Che cosa c'è di importante in tutti questi settori? Più che il contenuto è la qualità delle relazioni. Mi sono accorto che ciò che veramente a cui tenevo quando volevo andare a fare il direttore d'orchestra, alla fine, pazienza, non lo fai il direttore d'orchestra, ma ciò che tenevo in quel momento lì era creare un contesto dove si creasse un dialogo e una relazione fondata sull'armonia, sul rispetto reciproco, sul riconoscimento. Quando c'è quello, è ok, va bene. E questo l'ho visto accadere non solo nella musica, ma l'ho visto accadere anche nel mondo del diritto. Ricordo che quando mi occupavo di ricerca sul pubblico ministero, trovai due magistrati con i quali si era creata una sintonia tale, per cui nonostante che quella non fosse una materia a me che io amavo, a un certo punto ho cominciato ad amarlo, proprio perché le relazioni con queste persone erano improntate al rispetto, affettività, riconoscimento reciproco. Ok, questo è immaginato. Allora, le qualità delle relazioni. cosa ci comportano? Se le qualità delle relazioni sono qualità positive delle relazioni, parlo ovviamente in modo molto generico, nel senso, che cosa avvertiamo? Un'emozione positiva, qualcosa che ci fa sentire aperti, disponibili, ci fa sentire bene, pronti ad avvicinarci ad altre persone. Oppure nelle relazioni possiamo sperimentare qualità negative che danno emozioni negative, paura, rabbia, tristezza, ansia, tensione. Ecco cosa. Passiamo pure all'altro. Cosa fanno le emozioni positive? L'ho appena detto, ci avvicinano alle persone e fanno sì che le nostre energie possano essere messe al servizio di progetti. Eccolo lì, persone, progetti. Già passato. Ok, benissimo. Questo è un nostro antenato, vado ancora più indietro dalla storia che hai citato te. Quella lì è una ameba. Anche una ameba distingue tra ciò che gli fa bene e ciò che gli fa male. E Reich ha scoperto che dentro una ameba, anche a parte il movimento esterno, si genera un movimento interno, il protoplasma, una serie di onde che fanno come se avvicinasse l'oggetto. Vediamo, oltre. Ecco qui cosa succede una ameba quando incontra qualcosa che non gli piace, di cui ha paura. Benissimo. Passiamo oltre. Bene, noi siamo esseri umani e siamo formati, mi dicono, da 50 trilioni di cellule. Bene, ma siamo formati da 50 trilioni di cellule che assomigliano più o meno a una ameba e quei comportamenti lì ci sono anche dentro di noi. Quindi abbiamo fondamentalmente, per semplificare al massimo, due stati. Quello di apertura, di attrazione, e quello di repulsione e chiusura. Poi siamo chiamati in tanti nomi diversi. Ok, possiamo andare avanti? Ok. E adesso vi parlo di una delle illusioni collettive. Non so se è veramente collettiva, ma molti ce l'hanno. Si pensa che gli esseri umani, la maggioranza degli esseri umani, dice: ma io ho un'idea e voglio realizzare quello. Ecco, c'è una freccia interna, c'è l'obiettivo. Poi si chiede, ma come mai non lo realizzo? Che strano! E quasi sempre si attribuisce la causa al mondo esterno. La realtà che noi sappiamo degli esseri umani non è praticamente mai questa, di un solo vettore diretto da qualche parte, ma è quella della foto dopo. Ecco, c'è un vettore che vuole andare in quella direzione. Peccato che ce n'è un altro che vuole andare lì e un altro che vuole andare là. Mi voglio sposare con questa persona, ma voglio anche mantenere la libertà di uno che non è sposato. Due cose diverse. Ah, mi piace moltissimo realizzarmi nell'università, però io sono appassionato di sport e quindi ci troviamo di fronte al conflitto. E il conflitto non è qualcosa di raro, fa parte della natura umana. Nel conflitto cosa troviamo? Dispersione di energia vitale. Energia vitale che Reich chiama anche energia creativa, proprio l'essenza della vita. L'energia, quindi, dispersione di forza, perdiamo proprio energia, perdiamo forza. Due, perdiamo intelligenza, cioè capacità di capire le cose, comprenderle davvero. Tre, perdiamo creatività. I conflitti, se rimangono cronici, ve ne cito uno per tutti, quello di Darwin. Darwin, a un certo punto, fu esposto a un triplice conflitto, con sua moglie e con la comunità scientifica, proprio quando scoperse la sua teoria, insomma, quando trova la sua idea sull'evoluzione naturale. Si disse: se io vado a parlare di quello che ho scoperto alla comunità scientifica, esatto, questa è sua moglie già ne aveva parlato e sua moglie già gli faceva così. Perché? Perché? Perché sua moglie era molto religiosa e diceva: io ti amo tanto e fingiamo che nell'altro mondo tu andrai a finire all'inferno. Quindi Darwin, che era un uomo molto robusto, esposto a questo conflitto per qualche decina d'anni, si ridusse a una larva umana, non poteva più uscire di casa, era proprio ridotto male. Questo conflitto finì quando lui si decise di andare a parlare, dire che cosa veramente sentiva, qual era il suo, cosa aveva scoperto alla comunità scientifica, proprio perché un altro ricercatore in quel momento stava scoprendo le stesse cose, e allora si decise. Beh, ebbe fortuna in quel momento lì. E a quel punto il suo conflitto sparì e recuperò, sapete che cosa? La salute. Quindi recuperò la forza. I conflitti fanno disperdere un sacco di energia vitale, proprio tanto. Ok, passiamo dopo. Adesso Vediamo un'altra caratteristica dei conflitti se rimangono in piedi. Quando siamo preda di un conflitto, io voglio comunicare qualcosa, voglio comunicare un progetto a qualcuno. Fantastico, guarda, ti voglio coinvolgere, voglio essere proprio coinvolgere in questo progetto. Sì, una parte di me ci crede totalmente, un'altra parte no. Cosa succede? Sto semplificando al massimo. C'è una parte che magari è più cosciente, che si esprime di più con la comunicazione verbale e dice: guarda, questo progetto è meraviglioso, potremmo fare questo e quest'altro. Sì, solo che c'è un'altra parte che si esprime ugualmente, non a livello verbale, ma a livello non verbale. E sta dicendo esattamente il contrario, cioè sta dicendo: io a questo progetto non ci credo per niente, è una stupidaggine, vedi te. Quindi abbiamo un'incongruenza, un disturbo nella comunicazione. Dopo ci possiamo chiedere: ma che strano, sono stato, gli ho detto delle cose così esaltanti e l'altro non ci ha creduto. Ok, passiamo oltre. Ok, no, quello dopo. Gli studi sulla comunicazione ci dicono che 10% passa attraverso la comunicazione verbale strettamente intesa, il 40% attraverso la comunicazione paraverbale, cioè l'inflessione della voce, il tono, il ritmo e così via, e l'altro 50% corpo. È molto diverso se mentre vi parlo da così, vi parlo da così, vi parlo da così, vi parlo qui, chiaro. La comunicazione è molto potente. Bene, la comunicazione verbale è quello di cui solitamente abbiamo più consapevolezza, è lì che siamo istruiti a scuola, all'università quasi solo lì. Tutto il resto della comunicazione va sullo sfondo, quindi noi non siamo spesso consapevoli di che tipo di messaggio stiamo mandando. Ok, passiamo oltre. Ok, adesso mettiamo che guardiamo l'interazione tra persone, stiamo parlando di un team, benissimo. E sono stato veramente molto coinvolto dalla discussione, delle conversazioni di prima, quando sentivo che oggi appunto un team, è ormai i principi gerarchici stanno finalmente andando sullo sfondo e stanno emergendo principi di altro tipo, in cui tutte le persone di un team in qualche modo diventano a loro volta leader, sia pure parziali. No? Ok, bene. Adesso vi parlo di quello che succedeva in musicoterapia. In musicoterapia accadeva che se c'erano determinate condizioni relazionali tra le persone, il prodotto musicale era fantastico. Quando c'erano delle persone conflittuali prima, il risultato musicale era disastroso. Quindi, quello che conta, quello che viene fuori, la musica relazionale o la danza relazionale, diventa una danza disarmonica. Se vuole altro? Ok. La prima cosa quindi, credo per chi vuole essere leader di progetto, è accordare il proprio strumento, cioè passare dalla posizione a sinistra alla posizione a destra, cioè da vettori conflittuali a un vettore trainante che diventa leader delle parti interne, okay? In modo che si generi dalla discordanza, dal conflitto, sempre più congruenza. Questo sarà congruenza sia nella comunicazione sia nell'esempio che si dà nella vita e in ciò che si sta facendo in quel momento. Qualcuno parlava che il leader oggi deve essere un esempio di qualcosa. Okay, vediamo un attimo, poi mi fermi tu quando mi devi fermare. Fermiamo. Okay.